Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, siamo arrivati a venerdì e io sono qui con voi e come ogni giorno insieme a noi tanti esperti pronti a rispondere alle nostre domande, a leggere con noi le notizie del giorno. Il numero 349-238-6666, potete mandare i vostri sms, i vostri messaggi, i vocali, mentre voi vi attivate. Io vado subito a dare il benvenuto al dottor Claudio Cricelli, che è già in linea con noi, è il presidente della Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie. Dottor Cricelli, buongiorno, sono contenta di averla in linea con noi. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Dottore, io partirei dalla notizia perché la SIMG insieme al Board Scientifico Covid-19 ha lanciato un'iniziativa rivolta ai medici di famiglia per fornire supporto e orientamento. Parliamo di circa 60.000 professionisti che lavorano sul territorio in prima linea contro il coronavirus e sappiamo bene che è una categoria che sta pagando un prezzo alto in questa lotta quotidiana, sia in termini di vita umana che dazio al virus. L'iniziativa è rivolta ai medici, ma a beneficiarne siamo noi, cittadini, assistiti. Dottor Cricelli, partiamo da qui. Certo, tutte le volte che noi aiutiamo noi stessi e i nostri colleghi a lavorare meglio, a affrontare con maggiore concretezza e con maggiore competenza professionale le situazioni, soprattutto quelle più gravi come quella di oggi, non rendiamo un favore ai medici, rendiamo un servizio ai cittadini. Un buon medico è un medico che consente ai cittadini di stare meglio e di avere maggiore salute. Noi partiamo sempre da questo presupposto per evitare di credere che quando facciamo delle iniziative queste siano a beneficio dei medici. Noi siamo soltanto agenti intermediari. La nostra qualità si ripercuote immediatamente sulla qualità della salute delle persone. Professionalità, quindi, ma anche rigore, risposte concrete, regole, questa sembra la ricetta per superare questa emergenza, dove naturalmente, dottor Cricelli, ognuno deve fare la sua parte. Se noi cittadini siamo informati, responsabilizzati, possiamo collaborare naturalmente con maggiore efficacia e convinzione. Intanto, dottor Cricelli, ma qual è il ruolo del medico di medicina generale con le dotazioni oggi in suo possesso? Le dotazioni innanzitutto sono scarse e modeste, non è un problema soltanto dei medici, è un problema di tutto il paese. Ancora abbiamo grosse difficoltà a dotarci di quelli che sono chiamati i dispositivi di protezione individuale, a partire dalle mascherine. Ma tutto ciò detto, naturalmente è evidente che i medici hanno un ruolo diverso da quello dei singoli cittadini. I medici sono a contatto con la malattia direttamente. Se c'è qualcuno che vede il virus, siamo noi. Gli altri lo temono, ne stanno alla larga, noi per definizione facciamo il contrario, noi dove c'è il virus dobbiamo andare e quindi soffriamo più degli altri. E allora abbiamo deciso di dare delle indicazioni chiare, perché in questo momento c'è un diluvio di discorsi, chiacchiere, cose dette correttamente, cose che non riusciamo a controllare e naturalmente tutti noi, anche voi giornalisti, il cittadino comune dice: ma a cosa devo credere? Quali sono le informazioni che arrivano? E soprattutto si pone un altro problema che spesso noi non sottolineiamo abbastanza, ma i medici hanno delle sicurezze, hanno delle informazioni certe su cosa si fondano e si basano? Allora noi abbiamo fatto questo esalogo, cioè abbiamo semplicemente dato ai medici italiani, tutti indistintamente, delle basi comuni alle quali ciascuno debba ispirarsi, e queste basi sono tutte tratte dal meglio delle cosiddette evidenze scientifiche, tradotto delle sicurezze ragionevoli che noi in questo momento abbiamo, e questo serve a dare un messaggio ai medici. Nella pratica quotidiana, quando avete un problema, quando avete un dubbio, affidatevi a questi principi, che poi sono i principi che tutti i giorni trovate, no? Nella vostra professione, quando vi telefonano i nostri concittadini, le nostre persone, noi li chiamiamo pazienti, ma non sono pazienti, sono persone comuni, certo, che hanno timori, dubbi o che hanno dei problemi di salute. E proprio a questi timori e dubbi, dottor Cricelli, noi ogni giorno in questo spazio cerchiamo di rispondere. E allora iniziamo proprio dalle domande che arrivano dai nostri ascoltatori via mail oppure al 349-238-6666. Dottor Cricelli, informazioni chiare per comportarci nel modo corretto. Una persona, ad esempio, che per lavoro è esposta a tanti contatti e vive in famiglia, quali attenzioni e precauzioni deve seguire quando torna a casa dal suo lavoro e quali attenzioni devono avere i familiari nei suoi confronti? Pensiamo agli infermieri, ai medici, alle persone che lavorano al supermercato, in farmacia. Non vorrei dimenticarmene nessuna, però ci sono delle persone proprio che sono a contatto con il pubblico o con le persone. Dottor Cricelli, un'indicazione. Beh, è corretto, vede, la filiera comincia prima di uscire da casa la mattina. Quello che noi indossiamo sul lavoro non deve essere quello che noi indossiamo a casa. Bisogna vestirsi per il lavoro e questo non vale soltanto per i medici. Noi abbiamo proprio un decalogo su come ci si veste. I nostri vestiti non hanno niente a che vedere con i vestiti della nostra famiglia. E questo vale per tutti gli operatori del commercio, dei servizi che incontrano tantissime persone. È cosa diversa andare per strada tenendo distanze di sicurezza uno dall'altro, oppure essere dietro un banco di un supermercato, di un fornaio o dietro un ambulatorio medico avendo 10, 20, 30 persone nelle quali si può andare tranquillamente la malattia. Quindi inizia prima di uscire di casa, vestiti diversi, le protezioni servono soprattutto a chi riceve il virus, cioè quelli che ne ricevono tanti individui. Servono meno e sono più psicologiche per le persone che camminano per strada, ma sono quelli che sono esposti al pubblico, che hanno rischi moltiplicati per 10, 20, 30. E naturalmente poi sanificare, usare sempre le protezioni di sicurezza. Molti supermercati stanno suggerendo di portare i guanti perché si toccano, certo, le merci, eccetera, di stare distanti. L'altro suggerimento naturalmente è che quando si torna a casa, a parte pulirsi le mani con i gel, in questo momento stanno distribuendo falsi gel, ho detto stamani, pulirsi sempre le mani, perché i saponi, certo, i saponi e i gel sciolgono la sostanza di cui sono fatti i virus, no? Il capside proteico, lipidico di cui sono fatti, li sciolgono, quindi è chiaro che queste, che sembrano sciocchezze, ma ci ripetono sempre di stare lontani e di lavarsi le mani. Scusatemi, ma di cosa volete che parliamo? Se quello è il modo, certo, di trasmettere. Questi sono gli strumenti che al momento abbiamo per difenderci. Dottor Cricelli, andiamo alla cura. Come viene curato il paziente dal medico di medicina generale? Oltre al paracetamolo, il medico può prescrivere altri farmaci? E nel caso, questi farmaci poi si trovano nelle farmacie? Allora, c'è una grande confusione anche su questa faccenda dell'impiego di alcuni farmaci come idrossiclorochina o la clorochina. Questi farmaci sono scomparsi dal mercato, ma sa perché? Perché si è diffusa questa notizia che si dovevano prendere, accaparrarli, metterli in casa, perché se ci si ammalava bisognava prendere subito la clorochina. Tanto per essere chiari, la clorochina è un farmaco usato da persone che stanno male e che sono affette da artrite reumatoide, e se si accaparra queste persone non lo trovano più in farmacia per la prescrizione corrente. Poi è inutile prendere la clorochina. Noi sappiamo benissimo che ci sono dei protocolli e la gente deve sapere che i medici non ragionano sulla base di suggestioni personali o di emotività. C'è un protocollo, ci sono delle regole di prescrizione. Quando uno arriva in un ospedale e viene sottoposto a ricovero in reparto Covid, scatta immediatamente in tutta Italia il medesimo protocollo, le medesime regole. La clorochina, se si deve dare, si dà e deve essere disponibile perché viene data nelle circostanze in cui serve. Quando si torna a casa viene dato il protocollo, è un protocollo che tutti noi conosciamo, lo stiamo condividendo. È inutile pensare di inventarsi esperti. Sostituirci al nostro medico. Dottor Cricelli, tampone, anzi i due tamponi a distanza di 24 ore per dimostrare la guarigione. Domanda, sono a discrezione del curante o è un diritto del cittadino? Nessuno dei due, sono una regola, sono una procedura. Noi studiamo le cose da fare e che cosa abbiamo scoperto? Beh, innanzitutto che il tampone in questo momento, per ragioni di contingentamento del numero, è stato somministrato in misura largamente inferiore al necessario, forse. Però lasciamo perdere. Allora, il tampone è un elemento confirmatorio della diagnosi, ma ho occorre ricordare una cosa: nelle zone ormai dove noi operiamo e dove c'è un caso ogni 100 persone circolanti, cioè se noi usciamo c'è 100 persone in giro, uno di quelli è sicuramente ammalato, noi non ricorriamo più al tampone. Intanto il sospetto diagnostico, che diventa quasi una certezza, no, lo facciamo in 30 secondi, telefoniamo a casa. L'altro ieri un mio collega che sta in provincia di Varese, di Brescia, ha telefonato a un suo paziente, accanto a lui c'era la moglie che tossiva e che aveva una Stratos, e lui gli ha detto: guarda che tua moglie c'ha Covid. Allora, il tampone conferma, serve a dire, è il timbro che si mette su un caso, ma non ci vuole il timbro per sapere che quel caso è un caso molto probabilmente sospetto di Covid, e ormai ci prendiamo quasi sempre. Quindi il tampone, sa cosa serve il tampone? Il tampone serve soprattutto, oltre che a confermare che siamo guariti. E certo, però alcuni pazienti lo ricevono, altri no. No, i pazienti che sono stati sottoposti a sorveglianza ospedaliera, che sono stati ricoverati o che sono stati mandati. Sì, ospedaliera, ma se il paziente rimane a casa, mi scusi dottor Cricelli, prima le faccio questa domanda rapida perché poi dobbiamo lasciarci dare la linea al traffico. Il paziente riceve una diagnosi telefonica di Covid, passano i sintomi. Può ricevere il tampone, i due tamponi a distanza di 24 ore per confermare la guarigione? Sì, no, è una discrezione del medico oppure un diritto del cittadino? Chiaro, il paziente riceve il tampone quando viene ospedalizzato. Sì, questo lo sappiamo, ma io sto a casa con lei. A casa. Lei sta a casa, allora io medico faccio una diagnosi presuntiva altamente probabile di Covid-19. Cosa succede? Fino adesso non avevamo le strutture per andare al domicilio ad eseguire il tampone. Da pochi giorni, 2 o 3 giorni, ma credo da domani in tutta Italia, sono state istituite queste nuove strutture che si chiamano USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, dove ci sono dei medici giovani prevalentemente che sono dotati di tutti gli strumenti di protezione, perché noi non potevamo andare a casa del paziente non essendo protetti, altrimenti ci saremmo ammalati. Ecco, allora le USCA hanno come compito quello di andare al domicilio di questi pazienti che hanno una diagnosi sospetta ma molto certa probabilmente, e di somministrare il tampone anche ai pazienti che non sono andati in ospedale. Perfetto. Ok, quindi lei ci ha dato questa ulteriore informazione. Dottor Cricelli, la ringrazio per essere stato con noi. Ringraziamo naturalmente tutta la categoria dei medici di famiglia sul territorio per il loro impegno, e andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Obiettivo salute. E siamo ritornati insieme in linea con noi, come proprio venerdì scorso abbiamo il piacere di avere la professoressa Paola Cinque, infettivologa al San Raffaele di Milano e socia CIMIT. Professoressa, buongiorno, stiamo prendendo questo appuntamento al venerdì. Sì, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori, eccoci. Professoressa Cinque, intanto volevo chiederle subito di rispondere a questa domanda di un ascoltatore che ci scrive: è vero che il 5º o 6º giorno dalla comparsa dei sintomi sono i giorni più delicati, perché in questo lasso di tempo che generalmente si sviluppano le complicanze? Sì, è vero, è molto vero. Questa malattia esordisce quasi sempre con dei sintomi simili influenzali, un po' di febbre, un po' di tosse. E poi di solito verso i primi giorni, non sempre, ci sono molte variazioni tra una persona e l'altra, dopo qualche giorno la febbre tende a scendere, verso la fine della prima settimana può ritornare la febbre con di nuovo tosse, sintomi anche respiratori, che sono quelli che abbiamo detto tante volte ci devono preoccupare di più e subito allertarci per metterci in contatto con il nostro medico che ci dice cosa fare. A proposito di tempi, ci scrive un ascoltatore: volevo sapere circa quanto tempo mediamente si rimane in terapia intensiva con Covid-19, quanti riescono a sopravvivere e come. Di questo non si parla, ci scrive l'ascoltatore, e preoccupa. L'ascoltatore preoccupato, professoressa Cinque? Ma i tempi sono molto variabili a seconda delle condizioni della persona con cui che entra in terapia intensiva, a seconda delle patologie che può avere, da alcuni giorni fino anche a qualche settimana. E la maggior parte delle persone ce la fa, e soprattutto se si riesce a entrare in terapia intensiva precocemente, cioè quando i polmoni ancora hanno delle capacità di ripresa, questo sicuramente meglio. Per quello anche i nostri rianimatori cercano di mandare in terapia intensiva il prima possibile. Professoressa 5, indossare le mascherine, ma bisogna indossarle bene. Un nostro ascoltatore proprio ieri, tra l'altro un dentista, mi ha mandato una mail in cui ci propone questo tema. Lui ha preparato anche un video molto interessante su YouTube e ci dà un'informazione, una sorta di prova del 9: se gli occhiali, quando indossiamo le mascherine, si appannano, vuol dire che le mascherine non sono chiuse bene, e quindi professoressa 5, questo non ci protegge. Professoressa, so che anche lei ha visto il video su YouTube, un consiglio per indossare bene le mascherine, per sottolineare quanto sia importante farlo correttamente. Certo, è molto molto importante, anzi fondamentale. Un brevissimo ripasso però è sul tipo di mascherine, perché questo discorso è variabile a seconda delle mascherine che utilizziamo. Noi abbiamo le cosiddette mascherine chirurgiche, che sono per intenderci quelle leggere, azzurrine, con i laccetti o con gli elastici. Queste sono quelle più diffuse soprattutto nella popolazione e tra le persone, quindi non gli addetti alla sanità negli ospedali. Ecco, queste sono quelle un po' più a rischio di spifferi, possiamo chiamarli così, perché comunque… Sì, mi piace. È perché quando si appannano gli occhiali è perché c'è un po' d'aria, no? Dai lati della mascherina, quindi l'aria che noi emettiamo dal naso va su verso gli occhi e ci appanna gli occhiali. Queste sono comunque mascherine molto importanti da utilizzare, hanno comunque una funzione filtrante che è anche molto alta. Diciamo che non è solo la funzione protettiva, di fatto sono costituiti da quattro strati, quelli che aderiscono alla pelle, quello esterno, e poi c'è uno strato filtrante che filtra le famose goccioline che contengono il virus e uno strato impermeabile all'acqua, per cui la barriera protettiva e filtrante c'è. Chiaramente deve aderire il più possibile alla cute, quindi coprire bene naso, bocca e anche il mento. Cioè abbiamo un ferretto stringinaso sulla parte superiore della mascherina, quello, se le mascherine sono ben fatte, può essere stretto in modo tale da favorire l'aderenza. Lo stesso anche i laccetti o gli elastici si devono stringere il più possibile. Diciamo che il problema dell'aderenza è meno un problema nelle mascherine di livello superiore, quelle che ormai sappiamo che, certo, chiamiamo FFP2, FFP3, FF sta per filtrante facciale. Queste mascherine sono costituite da un materiale un po' più rigido che aderisce molto meglio, sembra quasi una museruola tante volte, quindi contiene bene naso, bocca e mento. Di solito hanno dei doppi elastici per cui garantiscono anche la tenuta, non si mollano, la mascherina non cade. Ed è fondamentale anche perché tante volte ci mettiamo la mascherina davanti, questo ci trasmette anche un falso senso di sicurezza, di sicurezza, che non è proprio il caso. Ecco, lei parla di sicurezza, manteniamo comunque le distanze di sicurezza, poi torneremo su questo aspetto, ci sono anche degli studi sull'importanza della distanza. Professoressa 5. Sì, è molto importante. Adesso lei ha citato degli studi, ce n'è uno molto recente che per ora è stato pubblicato su una piattaforma scientifica online, non ancora rivisto in modo ufficiale, ma dà delle indicazioni molto precise, perché uno studio fatto da ricercatori cinesi di Wuhan, Shanghai e Hong Kong. Cosa hanno fatto? Sono andati a misurare il virus, cercare di quantificarlo in campioni di aria. Questa è stata una raccolta fatta utilizzando tecniche già efficaci in altre circostanze, quindi sono stati posti dei filtri in zone critiche all'interno, all'esterno dell'ospedale, anche in cosiddette aree pubbliche come per esempio i supermercati, grandi magazzini, punti di passaggio, in condomini, fuori dall'ospedale. E quello che è stato osservato, e questo secondo me è molto interessante, che in alcune aree pubbliche ci sono in realtà delle zone, soprattutto zone di passaggio, dove dopo alcuni giorni è stato rilevato il virus o la parte di virus che è l'RNA, che è poi quello che si va a rilevare quando facciamo i famosi tamponi nasofaringei. E in particolare il virus era presente all'ingresso, per esempio, di un grande magazzino a circa un metro dall'entrata, che era una zona di intenso passaggio e anche di relativo assembramento, oppure in un punto all'aperto appena fuori da un ospedale dove passavano. Ecco, quindi professoressa Cinque, il messaggio che arriva da questi studi per noi che restiamo a casa in attesa e fiduciosi è? Il messaggio è che comunque il virus è in giro, ma non è così tanto in giro. La piccola cosa che volevo aggiungere a questo studio è che, per esempio, all'interno dei supermercati o dei grandi magazzini dove la gente è distanziata, questo studio è stato fatto quando c'erano già i regimi di contenimento in Cina, il virus non è stato trovato. È molto importante quindi il distanziamento tra le persone, i relativi assembramenti. Questo è molto importante. La mascherina aiuta senz'altro, aiuta a proteggerci e soprattutto aiuta a proteggere, perché se si trova il virus nell'aria evidentemente ci sono persone asintomatiche che probabilmente hanno avuto la possibilità di trasmettere il virus all'aria. Certo. Ecco, questo, l'attenzione con le mascherine, soprattutto evitare gli assembramenti, rispettare le distanze, fondamentali. Brava. Ecco, lo continuiamo a sottolineare. Grazie professoressa Cinque. Dottor Erzegovesi, so che è in linea con noi. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Pronti, buongiorno Nicoletta. Allora, non le chiedo né il colore né la ricetta, ma la tengo con me perché in linea con noi abbiamo la dottoressa Alessia Lai, che è una delle ricercatrici del team del Laboratorio di Malattie Infettive dell'Università di Milano presso l'ospedale Sacco, che dopo aver isolato il virus in vitro sono riusciti a fotografarlo. Allora, dottor Erzegovesi, condivido con lei il piacere di avere la dottoressa Lai al telefono. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Complimenti. Grazie. Dottoressa, ma il virus lombardo ci assomiglia a quello cinese? È esattamente dalla fotografia quello cinese, quindi non ci aspettavamo niente di differente. Ecco, la sua struttura conferma tutto l'appartenenza al coronavirus. Senta dottoressa, io devo chiudere e volevo anche salutare il dottor Erzegovesi, che per la ricetta è per noi, per la nostra salute. Sì? Una battuta, ma da questa foto voi potete notare se potrebbe mutare, diventare più aggressivo, insomma, oppure stiamo tranquilli? Non lo possiamo fare da questa foto, ma lo possiamo fare vedendo quello che c'è all'interno di quelle strutture, che sono appunto i virioni che vediamo dalla foto, e lo stiamo facendo, stiamo caratterizzando cioè quello che è il suo genoma virale, e stiamo osservando delle piccole differenze rispetto a quello cinese, ma non così significative, non tali da farci pensare insomma che sia più virulento, che sia più pericoloso insomma di quello che era. Insomma, non bisogna fermarsi alle apparenze. Grazie alla dottoressa Lai per essere stato con noi. Dottor Erzegovesi, i nostri amici la seguiranno sulle nostre pagine, ma l'aspetto lunedì. Assolutamente, verdure bianche. Grazie. Per il fine settimana. Grazie al dottor Erzegovesi, grazie a voi.